a Rock FM, sono le 8. Burro e rock and roll. DBR, pane, burro e rock and roll. La tua colazione. La migliore in circolazione. Un'altra ora. Ogni giorno alla mattina. Restate con noi. Rock FM. Perché conviene e perché fa bene. Un'altra ora di diretta. Ai ai ai. E me, che c'è? Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa, non vi preoccupate. Devotion. Caro DJ Ariele. Dica Roberto. In nome di tutti gli uomini stressati, sì? Io vorrei esprimere, citando una ansia in ansia, un'ansia in ansia, sì? Vorrei esprimere la mia solidarietà ad un ausiliario del traffico di Palermo. Esattamente la notizia che la redazione ci ha sottoposto quest'oggi, il titolo recita più o meno così: ausiliario del traffico stressato brucia tutte le multe. Infatti quest'uomo, questo povero uomo, stressato dalle continue giornaliere liti e dalle offese degli automobilisti di turno sotto il solleone della Sicilia, e rimproverato come se non bastasse al ritorno a casa dalla moglie, questo ausiliario del traffico dell'azienda per il trasporto pubblico in sigla AMAT di Palermo ha sfogato la sua ira, la sua frustrazione, bruciando per così dire i ferri del mestiere, divisa e taccuino, con i verbali già redatti. Così l'ennesima giornata storta per l'ausiliario si è conclusa con la denuncia della Polizia di Stato per distruzione di atti pubblici e danneggiamento di beni aziendali. L'uomo ha anche rischiato di incendiare il suo appartamento dove è scoppiata la lite coniugale. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. In fumo sono andate 20 contravvenzioni già compilate, una buona notizia per gli automobilisti chiamati in causa da queste 20 contravvenzioni. No, solidarietà all'ausiliario del traffico. Ma certo, poi guarda che certi automobilisti hanno tutte le fortune. Ma incredibile. Poi va a casa, litiga con la moglie, incendia la casa. No. Beh, quest'uomo non è troppo da biasimare. Cioè sì, il suo gesto è stato chissà quante eccessivo. Gliene dicevano. Lanciamo un appello da Milano, da Pane, Burro e Rock and Roll. Ausiliari del traffico che ci state ascoltando, ribellatevi, bruciate subito tutte le multe anche voi. Sì, ma con giudizio. Sì, mi piace molto, ma con giudizio, perché poi la Polizia di Stato... Ne avrei presa una qua sotto proprio ieri. Ah, ecco perché. Adesso mi spiego. Ma non possiamo dare il cattivo esempio. No. Dobbiamo pagarla questa multa. Di quant'è? Ah, è però. Vabbè, vediamo la quel che si può fare. No, telefoniamo al comando dei vigili. Mostriamo la tessera di autentico rocker e vediamo quel che succede. Mantenga la calma, Ariel. Risolveremo anche questo problema. Noi di Pane, Burro e Rock and Roll. e saranno giorni di gloria quando finalmente il mondo si accorgerà di noi rocker. Eh sì, quando Davide finalmente sconfiggerà Golia, quando la nicchia vincerà. E sappiatelo, in quel giorno di gloria noi non ci chiuderemo a riccio in noi stessi. Noi ringrazieremo ognuno di voi, uno per uno, per aver costruito insieme, mattone dopo mattone, questo grande successo radiofonico che si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. E ci ricorderemo anche di lui, Andrea, patentato 147. Ciao, Achille. Ciao. Settimana scorsa si è ascoltato per 5 giorni interi M2O, perché lui ascolta la concorrenza, studia la concorrenza, è il nostro Machiavelli. Esatto. Andrea, da lunedì cosa ti sei messo a ascoltare? Allora, io ho provato a ascoltare Radio DJ, quindi siamo un po' saliti, come dire, di qualità. Dai, M2O. Mi piace questo. Anche se. Mi piace questo ho provato. Ho provato perché praticamente, devo dire la verità, mi sono anche un po' annoiato a ascoltare Radio DJ. Allora, facciamo i signori però, Andrea, per favore, ragione, non spariamo a zero. Allora, Radio DJ, la conoscono tutti, un network radiofonico in tutta Italia, potentissimo. Sì. Cosa c'è? Quando qui c'è Pane, Burro e Rock and Roll, là c'è? Allora, Platinet, c'è il programma di Platinet dalle 7:30 alle 9:00, Platinet penso la conoscono tutti, due cose, si chiama Mauro Coruzzi, è nato a Trafarme e Pavia nel 55, dal 99 su Radio DJ, poi ha fatto una carriera in praticamente tutti i settori. Ha un anno in meno di Fricantoni. 4 novembre 55. È di novembre come me, però va bene. Platinet. E quindi sostanzialmente i temi del giorno erano più che altro dei temi settimanali. Questa era la settimana del vizio e della dipendenza. C'era un vizio o una dipendenza legati a questo tema della settimana. Beh, scusa, anche noi potremmo fare le puntate dedicate al vizio. È molto rock, secondo me. Esatto, non finiremmo mai di farle. Di cosa parlavano? Il tema del giorno che ho raccolto è quello del bere. Ah beh, complimenti, hai scelto proprio quello giusto, bravo Andrea. Grazie. Esatto. Per farci fare la nostra porca figura. Quindi trattavano l'argomento ovviamente. Sì, trattavano l'argomento bene. In questo modo, sostanzialmente mandavano, no, ma degli alcolisti reali, mandavano degli SMS a Platinet e venivano richiamati da Platinet descrivendo un po' in breve la loro situazione e il modo in cui erano usciti dal vizio dell'alcol. Ah, beh, quindi prende l'argomento seriamente. Infatti, per questo ti dicevo che poi comunque a chiosa di ogni telefonata Platinet concludeva in modo, lo dico, un po' demagogico, con delle frasettine di chiusura un po' classiche, diciamo così. Però guarda, io mi assumo le mie responsabilità. Secondo me a Pane, Burro e Rock and Roll trattare argomenti seri non ha famo, te lo dico. Cioè, veramente rischiamo il linciaggio. No, infatti, la cosa divertente che ho raccolto era che ogni tanto c'era qualche battuta, qualche intramezzo di Platinet. Ad esempio, nella descrizione di una persona che ha chiamato descrivendo la sua situazione, Platinet dice: ma sì, anch'io da adolescente, nel mio tragitto da adolescente ad adulto, ho avuto anch'io un'esperienza di alcol. Questo lo faceva perché c'era un suo amico dell'università che frequentava, il quale era alcolizzato, e quindi lei o lui, insomma, di conseguenza andava dietro anche nel suo vizio. Quindi anche esperienza personale. Beh, potevo mettercela anch'io l'esperienza personale in questo campo. Vabbè, c'è questo. È meglio glissare, guarda Andrea. Ti sei veramente imbarcato in una strada che secondo me era meglio non toccare. Torna ad M2O. No, scherzo. No, vabbè. Tra l'altro, ecco, le conclusioni demagogiche del tipo: bisogna affrontare la testa alta anche le pagine meno chiare della nostra vita. Sì. E quindi insomma, un po' dopo chiudeva con queste cose qua. Quindi secondo te battiamo anche Radio DJ in qualche modo? Bah, io direi assolutamente. Beh, ti sento molto più rilassato e tranquillo di settimana scorsa, che effettivamente il compito era un po' più duro. Ti diamo un altro turno, sempre per studiare Platinet e carpire i segreti per la nostra vittoria. Senti, secondo me Radio DJ è talmente grossa e fornita, come un po' tutte le radio, e per cui si può anche vedere in webcam cosa sta succedendo. Io ho una domanda veramente stupida, ma Platinet, quando fa il programma radiofonico, come vestito? È È stupida la domanda, però è una cosa che mi sono sempre chiesto. Cioè, va come da Costanzo o è natura? Adesso Andrea, scoprilo! Scoprilo! D'accordo. 147, sei stato fenomenale, come al solito. Grazie! Alla prossima, ciao! C'è qualcuno che ci vuole descrivere un calendario? Di qualsiasi tipo, eh? Donne, uomini, animali, santi, giocattoli, cartoni animati. Testa nello studio della diretta di Rock FM, che abbiamo l'appuntamento con i compleanni del giorno. Non sto parlando a vuoto, sto parlando a Fricantoni. L'ascolto, l'ascolto. Aspettavo il tuffo di testa, non l'ha carpito. Eccolo lì, è arrivato. Non l'ha carpito, è stupendo, è un doppio carpiato avvitato. Lì, iniziamo, perché in questo 17 ottobre non parlare dei compleanni? Ma sì, facciamolo anche perché so che la mette di buon umore, la rubrica positiva per eccellenza. Oggi partiamo con un esploratore portoghese. In quanto esploratore, rocker certo, nasceva nel 1480, pensate un po', Ferdinando Magellano. Colpo di scena, ma pensate a questi uomini, questi primi esploratori sulle loro barchette in mezzo all'oceano, quando pensavano che il mondo fosse, la terra fosse piatta e il mondo finisse a un certo punto e si sprofondasse negli abissi abissi, pensi la paura, pensi il nervo di quest'uomine a tenere unita la ciurma. Lei è fondamentale in questi interventi, maestro. Grazie di esistere. Passiamo a una bellezza statunitense, un'attrice fenomenale che sicuramente avrà dato qualche prurito alla giovane freak. Marilyn Monroe? No. Forse Marilyn Monroe? Nasceva nel 1918 Rita Hayworth. Ah, va bene uguale. Conta lo stesso. Prende anche questo? Sì. Lei sa il vero nome della bella e brava Rita? Me lo dica per favore, me lo dica. Era Margarita Carmen Cansino. Cansino, mi ricorda qualcosa? Forse un paese del centro Italia bombardato? No. Ecco, infatti, no, mi ricorda una bellissima ballerina, showgirl. Tini Cansino, del drive-in, sì. Del glorioso... Nulla. No, c'entra perché Tini Cansino più volte azzardò l'ipotesi di essere nipote della bellissima Rita Hayworth. Addarattara? Sì, sì, ci in sta. Effetti l'ambaradan è questo. L'ambaradan è questo. Ci ricordi il personaggio più famoso di Rita Hayworth? Subito! Gilda! Eccolo lì, perfetto. La straordinaria Gilda. Non le chiedo film, se no mi risponde come Mike Buongiorno. Ricorderò io La signora di Shanghai, Gli amori di Carmen e Trinidad. Ma eccolo soprattutto lì. La bellissima e provocante, sì? Gilda. L'abbiamo già detto, colpo maestra. Di scena. Proseguiamo. Venga sul cerchietto. Voglio la busta numero 2. Sì, nella Gilda. Busta numero 2 guardi chi c'è. Gilda. Era il 1968 quando nasceva Ziggy Marley, figlio del ben celebre padre Bob Marley, il re del reggae. Con cosa mi controbatte? Non faccia reggae, mi controbatta, per favore. Sì, la controbatto con Chris Slater, attore pornografico statunitense nato nel 1981, il 17 ottobre. Le sembra interessante dare il compleanno di un pornodivo? Ma sì, anche perché, sai, i pornodivi sono sempre sfiziosi, non si sa mai se maestro, il montatore... Maestro, usciamo da questo cul-de-sac, la prego. No, volevo fare la seguente battuta, va se bene, me lo consente. Lo faccia, sì. Nell'ambito del porno, eccolo, non si sa mai se gli attori e i montatori sono la stessa persona. Grazie. Prego. Ustedes son españoles? Como nos, tutto duos. Somos españolos puros, tutto duos. De dónde? Io de Madrid, nativos. Nativos, perché posso essere uno che gira parecchio tutte le parti. E usted? Io, dove sei? Io ho detto Madrid. Ugualos, non conosco Ugualos, è un piccolissimo paesino, vicino a Ugualos, difficilissimo trovarlo nella cartina, è provincia di Granadas. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Intanto che il DJ Ariele, Daniele in qualche modo, è in giro per ma i corridoi. Ma che in giro? Sono qua. Buongiorno. Lei crede che vada? È lei che se la gira tutta la mattina. Bentornato, bentornato ai microfoni di Pane, Burro e Rock and Roll. Si fa? Si fa che volevo rubarle, lo ammetto sinceramente, sì. Spero apprezzi la mia onestà. Glielo concedo. Il test attitudinale per la patente di vero rocker. No, la domanda la faccio io. Ah, che non dolore. Transigo. Oggi parliamo di un articolo del lontano 2 aprile 1958, quando un certo Herb Kane della San Francisco Chronicle, ovviamente un giornalista, coniò un nuovo termine per definire i giovani appartenenti alla cosiddetta generazione beat. Era, ricordiamo, il 58. Ricordate di che termine si trattava? Che termine coniò Herb Kane nel 58? Era forse opzione A, beatnik? Ma chi lo sa? Era forse opzione B, long hairs, cappelloni? Ma chi lo sa? E forse era opzione C, beat, beat, boys. Lo scopriamo tra poco, il termine coniato dal giornalista del Chronicles nel 58 per la generazione beat. Beatnik, long hairs o beat, beat, boys? La soluzione, come al solito, ve la diamo tra poco. La risposta esatta a dopo. C'era pathos, bravo. Grazie.